Michelino, facciamo presigla un attimo. Dai, dai, facciamo, dai. Dai, pronti? Dai. Dai. Dai. Dai. Continua, vai Michelino. Che muori. Continua, continua. Devi fare 3 minuti e 30 perché poi non abbiamo il resto della puntata. Quindi devi andare avanti. Vai, vai. Michelino. Vabbè, la gastrite. Sì, però scusa, non è che possiamo trasformare chiedo asilo in chiedo intervento dell'ambulanza, così 118. Ormai praticamente tutti i giorni ce n'è uno. Non è vero, venerdì sto da Dio, Drago. Anche il sabato e la domenica. Oddio, la domenica a volte. Cosa? Mi viene un po' lo spleen, no? Lo spleen. Sì. Ho capito, pretendere che qui all'asilo si sappia cosa vuol dire spleen è un po' troppo, ma comunque viene lo spleen. Lo spleen è l'ideale, no? Baudelaire, lo sanno tutti, i fiori del male, Gautier, sono cose che si sanno tutti. Ma Gautier chi, lo stilista? No, quello è Jean-Paul Gaultier, con la L, Gaultier. Ma non si dice Gaultier. L'altro è Théophile Gautier, no? Senza L, Gautier, poeta parnassiano. Tito! Hai ragione! Ma bravo, parnassiano! Dai. Bisogna sempre stare attenti a quel che si dice, perché appena si supera anche di poco il limite della stupidera totale, si fanno intravedere proprio degli sprazzi così di cultura alta, tac, arriva il segugio bastardo, aia, aia, mollami, aia. Si impari a dire la parola parnassiana. Aiuto! Perché aiuto. Bastardo va bene. Sì, a Tito. Sì, perché insomma, dare del bastardo a Tito, che è un cane di razza con tanto di pedigree e di certificato di razza e di tutto, che il padre si chiama Hemingway, il nonno, Cheso del Goth, tutta una roba, insomma, è una roba che risale dal 38. Un certificato di razza. Certo. Pronto? Sì, pronto. No, Manolito, guarda, per favore, oggi non, no, ho la gastrite, Drago mi ha lasciato da solo qui con la gastrite, la sua solita solidarietà, questo gastrite, telefono. Gastrite. Dolore de panza. Sì, dolore. Ma sì, molto dolore de panza. Signor, io vi consiglio di manducar una mollica de pan. Sì, una mollica di pane. Sì, esatto. Grazie Manolito. Adesso suggerimenti ne ho fin sopra i capelli sulla Manolito gastrite. Quindi... Perché Manolito tiene anche también gastrite de quando ya aquí el señor Julian Assange. Manolito manduca sempre la mollica di pane e il dolor passa. Sì, no, ma ci vogliono le medicine. Passa, che... il dolor passa, No, il condo passa, ma per favore, Manolino, fai anche le battute, ci vogliono le medicine qua. No, medicina no, signore, no. Perché? No. Sei contro la medicina? Perché tu credi negli stregoni, Quale Maya? No, i stregoni, ho letto los dossiers de Wikileaks sobre las industrias farmacéuticas. E ora tengo paura di intossicarmi prendendo medicina. Ma a forza di stare con Assange chiuso nell'ambasciata ecuadoregna lì a Londra o ecuadoriana, sei diventato paranoico come lui. No, Assange. Ma come? Ma dai, sì. Anche è smart paranoico che mi, Mi fa sempre assaggiar las pietanzas primero de manducar e non si fida de los cucineros de la embajada. Tiene paura de morir apoisonado y me toca siempre, amigo, de far la cabia. Amigo, la cabia, la cabia de experimento. La cavia. La cabia e también la cabia. Vabbè, io continuo a soffrire di gastrite, parlo con te e questa cosa certo non migliora la mia condizione. Grazie, Manolito, quindi, signore. Ecco, quindi ciao. Hasta luego, vediamo la prossima settimana. No, ma anche no, non lascia stare. Anche también no? Ecco, anche también no. Manolito non comprende il sarcasmo milanese. Ecco, secondo me lo capisci benissimo. No, Manolito. È bien, sì. Signor. No. Ciao. No. Ciao. Está bien, del dossier. Negro, anche también. Assaggiare tutto lo cibo. Basta, metti giù. Metti giù. Non vuoi essere posizionato. Metti giù. Metto giù. Está bien. E ora bambini, ricreazione. fratelli d'Italia, l'Italia se desta. Bravo. Bambino Alberto, bravo, ti stai esercitando da solo. Insomma, sterrefatto a vedere questa disciplina, bravo. Allora, non è che lo faccio perché mi piace. È che adesso finisce l'intervallo e mi interrogo, faccio l'interrogazione sull'inno. Sì, vabbè, ma tu lo sai tutto, no? L'hai imparato tutto? No, tutto no. Ma come? Scusami, no? Allora, la prima volta tu, Zappa, mi hai insegnato l'introduzione musicale, no? Esatto. La seconda volta, quella lì. Esatto, quella lì. E la sai. E quella l'abbiamo messa a latere. Invece Drago mi ha insegnato la strofa, quella dello stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte. La morte, no? Italia siamo, certo. Quella roba lì. Ma il resto io l'ho imparato solo dalle partite della nazionale in televisione, no? E se che mettono i microfoni vicino ai giocatori che cantano. Sì. Ma tu impari. Ma impari cosa? Il labiale? Non senti mica bene. Poi cantano male. Cioè, cosa impari? Se lo dice K che è un vocal coach, allora Buffon canta male. Vabbè, allora qui a proposito del vocal coach. Allora, visto adesso siete qua, fatemi una lezioncina brevis, che almeno vado dentro e faccio l'interrogazione in Brevis, no? Brevis, mi raccomando. Vai. Allora, dai. Comincia lì, c'è l'intro. Basta l'intro, l'abbiamo messa là. Ok, scontata, assodata, acquisita. Non sono tanto sicuro, ma va bene. Ma come? Non so, vabbè, dai. Basta, allora, come quindi, lo so? Allora, il testo. Ma come, dai, basta. Lo so. Lo sai, fallo, dai, fallo, almeno una volta. Allora. Non so se passi l'interrogazione così. Potresti farlo meglio, meglio. Ma siccome ho saputo internos a latere che nell'interrogazione non chiedono l'intro, chiaro? Quindi direi che noi possiamo procedere rapidamente nell'imparare almeno l'inizio, no? Il resto del testo della musica. Sì, ma sei sicuro? Ma di che cosa? Che l'interrogazione non comprenda l'intro. Perché a me risulta il contrario, poi siamo stati qua a insegnartelo, a impararlo. Io ho sentito delle voci di corridoio. Allora non fidarti, perché le voci di corridoio di solito sono dei miti e sviano sempre gli studenti. Comunque, allora vi faccio solo notare che voi due parlate, ma non mi avete ancora insegnato il nucleo della canzone. Come no? È il nucleo che. Cioè, nucleo. Inizio, comincia con Fratelli d'Italia, Italia, se ma devi insegnargliele tu, Drago, le parole. Sì. Però la scorsa settimana ho avuto soltanto il tempo di insegnargli una strofa, che quella, qual è la strofa, bambino algoritmo? Quella lì, no? Stringiamoci a corte. Bravo. Siamo pronti alla morte. Canta, ma però, se non è l'inizio, io devi cantarla. Stringiamoci a corte. Siamo pronti alla morte. Siamo pronti alla morte. L'Italia chiama. Quello aspetta me, no? Drago, dai, perché Drago si allarga, non insegna tutte le parole, non quelle fondamentali. Poi sarebbe a dire che mi allargo la musica cosa vuoi dire? È una parte musicale, intanto. Tu sei il lyric coach, io il vocal coach. Ho capito, però coach. Quindi se permetti, non è competenza del lyric coach, perché non è che il testo dica però vabbè, intanto Mameli non è che ha scritto ma tu l'altra volta non gliela avevi insegnato. Scritto, Mameli? Mameli. Ecco, vedi. Non lo so. Vedi che non lo sai. Basta! No, vabbè, perché l'altra volta. Ma voi siete pazzi! Siete peggio dei bambini! Allora, io devo farmi trovare impreparato l'interrogazione, perché voi due state lì a litigare sul lyric coach, vocal coach. No, perché lui fa zan zan zan. Ecco, vabbè, adesso cosa dobbiamo fare? È finita la ricreazione, bambino albachiara. Allora. Vabbè, dai, le parole dell'inno sono facili, Fratelli d'Italia, l'Italia se destra, eccetera, la sanno tutti, no? Ma ho capito l'inizio, ma com'è poi? C'è tutta la storia della vittoria, della chioma. Lo so, poi, boh. Sta chioma, io non so neanche che cos'è, cioè, la chioma. I capelli, sono i capelli, bambino Alberto. Capelli. Ma certo, no? Sì, però guarda, tanto è tardi. Vai, facciamo. I capelli, la chioma. Se ti interrogano, non lo so. Allora, e poi andare via. Allora, la mia interrogazione, poi rimango qui. Adesso come faccio? La chioma! La chioma sono i capelli. Allora, io mi dicono, cantalino. Io so fare solo. Torno lì. E poi arriva la chioma. Mi sta chioma i capelli, no? No, poi ci si ferma e poi. Zan zan zan, e sono tre qui, poi c'è la chioma, no? Chioma la schiava di Roma, no? La schiava di Roma! La chioma significa. Ma tu stai facendo un'altra roba, così è Barba Papà, io sto facendo l'inno nazionale. Ci sono Barba Papà, Barba Mamma, Barbidù, Barbuil, Barba Bella, Barba Dura, Barbottina, Barbidù, Babababa. Mancano giorni alla fine del mondo.